America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. But let's just take a minute here and point out that this committee is basically an arm of the Republican National Committee. Vi ho fatto ascoltare un audio del dibattito di ieri notte, il dibattito democratico, questa volta il quarto dibattito democratico organizzato da NBC News, YouTube, Congressional Black Caucus Institute in South Carolina, che tra l'altro è uno stato chiave. Hillary Clinton da una parte e quella che è diventata un po' la sua bestia nera, Bernie Sanders dall'altra, senatore del Vermont, un rappresentante della sinistra democratica, della sinistra del Partito Democratico. Poi c'era anche Martin O'Malley, ex governatore del Maryland, che però ha un ruolo più di comparsa. Ecco, in queste ultime ore devo dire che Hillary Clinton è riuscita a recuperare su Bernie Sanders, soprattutto in Iowa. Questo senatore del Vermont, che sembrava senza arte né parte, in realtà è riuscito per ora a fare molto bene. Però c'è incertezza, nel senso che Hillary, la sua candidatura, che sembrava sicura, a questo punto, come dire, si vedono delle debolezze. In campo repubblicano, abbiamo visto il dibattito qualche giorno fa, ci sono altrettante incertezze con al vertice personaggi come Trump e come Ted Cruz, senatore del Texas. Ecco perché, a parte l'interesse ovviamente del dibattito fra i candidati, visto che fra poco avremo l'Iowa, il primo di febbraio ci sarà il caucus dell'Iowa, quindi siamo ormai a poco meno di 2 settimane, questa incertezza politica non aiuta. Non aiuta a che cosa? Non aiuta ad avere quella percezione di stabilità di cui invece avrebbe enormemente bisogno il mercato, perché come abbiamo visto, abbiamo avuto un'altra settimana piuttosto brutta. La settimana scorsa abbiamo chiuso di nuovo in forte calo, siamo nel pieno di una correzione e che cosa succede? Che proprio ieri, quando sembrava che ci fossero così delle prospettive più ottimistiche sul fronte medio orientale, soprattutto nelle relazioni con l'Iran, che poi ha rilasciato non solo i prigionieri che aveva catturato, i marinai che aveva catturato, ma poi anche degli altri prigionieri che doveva liberare come parte dell'accordo sul nucleare. Ecco, li ha liberati. Il presidente Obama ha fatto dichiarazioni molto incoraggianti e dopodiché ieri la Casa Bianca ha imposto nuove sanzioni contro l'Iran, sanzioni minori e pur sempre sanzioni, perché l'Iran in realtà ha violato una delle risoluzioni dell'ONU facendo degli esperimenti, dei test con un missile balistico intercontinentale. Abbiamo cominciato, come ricorderete, la prima settimana del 2016 non bene, abbiamo avuto problemi economici in arrivo soprattutto dalla Cina, politici, problemi di mercato. Ecco, se a un certo punto la borsa va in caduta verticale perché si pensa che sulla politica dei tassi ci saranno dei problemi e perché si pensa che alcuni mercati sono più fragili degli altri, ci sarà un effetto domino e così via, così via. Ecco che quell'economia finanziaria che va male potrà avere sicuramente un impatto sull'economia reale. Ci sono già preoccupazioni di fragilità per l'economia americana, ne abbiamo parlato qualche tempo fa. Oggi i mercati in America, negli Stati Uniti, sono chiusi, Martin Luther King Day, dunque non vedremo come impostare la settimana i mercati, lo vedremo sulle altre piazze naturalmente, eppure in questa settimana cercheremo di capire se è possibile un recupero di stabilità oppure se continueremo in quella fase di correzione che secondo me continua ad essere piuttosto preoccupante. Perché? Ma per molte ragioni. Per esempio, torniamo al fronte iraniano. Il problema di Teheran non è soltanto di recupero di rapporti dal punto di vista politico, però Teheran riceverà degli enormi aiuti finanziari e utilizzerà questi aiuti per destabilizzare il Medio Oriente. Questa è la paura di alcuni candidati, lo diceva ieri mattina Marco Rubio in una delle interviste del mattino alla CBS. Non solo la caduta del petrolio che ha contribuito alla destabilizzazione dei mercati, c'è stata anche perché Teheran ha detto di essere pronto a non dare il mercato con il suo greggio, e questo ovviamente porterà a ulteriori diminuzioni dei prezzi. Non so quanto però, perché in realtà il mercato sconta sempre queste notizie. Dunque abbiamo davanti a noi una serie di turbolenze, vedremo se ci sarà una base di resistenza oppure se continueremo con la crisi. Ecco, poi domani avremo il dato relativo al PIL cinese del 2015, anche questo sarà un dato importante, anche se qualcuno dice che i dati cinesi non sono molto affidabili. Il premier cinese Li Keqiang ha detto che ci si aspetta una crescita intorno al 7%, però vi dicevo, finora i mercati non hanno dato molto affidamento a quelle che sono le proiezioni statistiche in arrivo da Pechino. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!